incrocia il collo in testa, bandana in seta, bastano le rime e parole, meglio di un poeta. Rodolfo Valentino ci stima molto rega, sinceramente non ce ne frega del pregiudizio. Anthony ti piega e prega, prega che non ti faccia male, male, male da soffrire, siamo innocui, non facciamo nulla, ma se ci tocchi nessuno più ti molla, ti roviniamo le finanze scoppiandoti come una bolla, e ti attacchi a sto cazzo come la colla, la tua grande compagnia di buffoni crolla, non vogliamo che il tuo amico ci si accolla, potrebbe prenderle anche lui se è chiaro, dopo questa mettiti a riparo, io non faccio male, questo è un caso raro, ma se le prende da me butti sangue amaro dalla bocca, mi sono fatto tua sorella quella gnocca, c'è qualcosa che ti blocca, lo sanno tutti che è una grande porca. Della folla ci acclama, Crewcast è la fama, se la gente ci richiama, Crewcast è di fama, se la città esclama, Crewcast è il trama, e se qualche problema prendi il telefono e chiama. Della folla ci acclama, Crewcast è la fama, se la gente ci richiama, Crewcast è di fama, se la città esclama, Crewcast è il trama, e se qualche problema prendi il telefono e chiama. Davide Duccini non c'ho trasino me, pur c'è stonno chi becca a te non è che me, io non c'ho voglia fra me la nisciuna, io mi voglio per te chiancia come creatura, allora sto co teatro su tuo comune, io vedo che passi a spista a chi se ci chiuna, ci voca wonder che gli una che gli una, se mettono tutto quanto paura, i fatto caghe tutte indica al zuna, ma fashion il loro scongiura, se sapono schizza per chi è per cura, non si avvertono che ho picchi in lugura. Ma ci facciano allora ci piace, ma vita custa ci soffresce, in da cazzo la neta non ci stanno scritte tremuna, stanno pure chi da cade tratta una buona, gli essere i soldi da indica al zoom. Nella folla ci acclama, più cazzo è la fama, se la gente ci richiama, più cazzo è di fama, se la città esclama, più cazzo è il trama, e se hai qualche problema prendi il telefono e chiama. Nella folla ci acclama, più cazzo è la fama, se la gente ci richiama, più cazzo è di fama, se la città esclama, più cazzo è il trama, e se hai qualche problema prendi il telefono e chiama. Tu è il nostro lusso principale, quello del rispetto, essere neutrale, con i fatti chiari non accadrà nulla di male, ma se inizia a fare il poco cordiale ti concio per le feste di carnevale, per sfidare Crewcast in un arsenale non basta, no. Crewcast è il guasta, tutta l'armeria deposta, minacce noiose come una partita a canasta, questo è un patto, non è un ricatto, stoppo questa musica come uno stop di betto. Se la folla ci acclama, Crewcast è la fama, se la gente ci richiama, Crewcast è di fama, se la città esclama, Crewcast è il trama, e se qualche problema prendi il telefono e chiama. Nella folla ci acclama, Crewcast è la fama, se la gente ci richiama, Crewcast è di fama, se la città esclama, Crewcast è il trama, e se qualche problema prendi